crediamo, sì o no? E beh, ma oggi non ne cantiamo messa? C'è poco di gente che sta dormendo stasera. Attento Marco Condon. Francesco? Attento Francesco? No, stai uscendo tu. Attento Francesco? Avanti ora. Avanti chi su che ha dolori. O ballarecci, avanti quello che ha dolori. Francesco? Attento Ursino. Attenzione Ursino. E beh, tutti morti oggi. Tutti morti. Oh, e beh, ci svegliamo, sì o no? Sveglia. Sveglia gioventù, sveglia, sveglia, sveglia. Sveglia canale 10, sveglia canale 10. Attento Marino, ci sei? C'è nessuno sul canale 10? C'è nessuno sul canale 10? Sentivo basso basso, io non lo so, poi l'ho chiamato ma non ha risposto, quindi per lui vuol dire non avevo voglia. Ma a me state dicendo? No, non eri tu. Ciao Gianfra, avanti. Buonasera a tutti e due. No, ero io poco fa, io ti accorgo, aspetta un attimo che spengo lo stereo, che c'è lo stereo un po' alto. Ah Gianni, sì, no, non eri tu già, no, era un basso basso, si sentiva appena. Allora, cosa mi raccontate di bello? Ma proprio bello, oggi è lunedì, domani è martedì, bene ti va quello che ti ho raccontato. E lunedì è un po' fiacca, dai, un po' di fiacca c'è. No, assolutamente, non sono per niente stanco io. Dunque sono sempre a riposo, perciò vabbè, la mattina già qualcosina già la faccio, ma mi serve come per passare il tempo, anzi diciamo che mi piace, non cerco il da fare la mattina. Vai Claudio, allora zappato mai oggi? No, zappato niente, non ho fatto niente la verità, domani teloniamo. Domani teloniamo, tanto è già andata, KK, e cosa raccontiamo? Cosa devi raccontare? Nulla, ieri è la domenica, bella giornata, campagnola, e oggi a casa. E non ti è piantato nulla in campagna, Claudio? Cosa? Non ti è piantato nulla nella casa in campagna? No, solo questa bugana è tutta da nobili. No, ho piantato di piante, dico, piante da frutta, cose così, non ne ho messo. Già ce n'è, c'è la bicocca, pere, mele. Il resto non ci ho piantato nulla io. Allora c'è pensione, non devi travagliare. No, ma anche perché poi vuole curato, io non sono campagnolo, non aggiugana di Vannuta, no, assolutamente. A Assolutamente, già va bene così. KK. Poi adesso 14 ci andiamo al Alghero. E mia figlia vuole stare un po' di giorni ad Alghero e quindi ci andiamo al Alghero. Ce ne andiamo al Ghero, un po' di giorni ad Alghero, quindi proprio a staccare la presa. E adesso si sta bene che non c'è molta gente, dai, che sono tutti rientrati. Io stamattina ero lì alla cameretta urbanica e c'era pochissima gente al mare, e c'era la spiaggia deserta, anche se c'era un mare che era favoloso, proprio una tavoletta. E infatti, io ci sono così, vabbè, lei va in ferie dal 14, quindi ci andiamo al Alghero una settimana, per caso di Alghero, e basta, a staccare un po', così. Ah, sono sempre a casa piena già, mamma mia, come sto. E fa ricordare, quando avevo preso la casa in affitto a Platanova, che in accudiare tutti gli amici, allora di cena, io vai a arrostire tutte le sere da arrostire a va. E a parte arrostire, no, insomma, poi c'è a pulire, ieri a pulire, a fare, no, stacchiamo un po', dai, sennò non ti nascondo che non vedo l'ora di dormire a casa, perché riferraffami, sto meglio. Vai Giulio. Ok, ma stavo già ti dico, Gianni, avere un punto fisso così e farlo sapere ai parenti non vale per niente la pena, perché vengono lì solo a sfruttare. Io mi ricordo quando facevo il campeggio a Bacca di Gaia, che era una lotta continua, e io lo facevo anche per 4 mesi, tutto l'anno, tutta l'estate, facevo, caspita, tanto per dire una, portare all'ora di pranzo, portare una cassa di bere e una cassa di acqua minerale. La sera, siccome io poi salivo a lavorare, no? La sera scendo di nuovo al mare e le chiedo a mia moglie, dammi un bicchiere d'acqua, e io no, faccio, e però ce l'hai tutta consumata, se l'ho portata all'ora di pranzo, l'ho portata una casa intera, fatto, e allora, e cosa bevo? Boh. E abbiamo la birra e basta, cioè non abbiamo nemmeno la birra, come sarebbe a dire? Tutta sono bevuta, sono arrivati un certo numero di parenti e sono bevuto sia l'acqua che la birra, una cosa incredibile, ragazzi. Due minuti a cena, tutti i pranzi sempre a cena, sempre a pranzo invitati, no, non è possibile Gianni, l'unica cosa è avere il camper, prendi, parti e nessuno sa dove sì. E fa, ci sono alcuni di per il pranzo, a mangiare, e già siamo con voi quintanto. Sì, fa piacere gli amici che vengano una volta, ma poi quando è troppo là. Ti prendi la casa al mare per rilassarti un po' e ti devi assillare, poi le donne si lamentano che devono lavare, che devono fare, che è troppa gente, sai come sono. Un'altra cosa da sapere, noi avevamo 6 poltroncini, 6 di ebraio, no? Avevamo, e noi di casa mia eravamo in 3, io, mia moglie e mia figlia. Beh, appena prenotato tutti alla 6 di ebraio, non ce n'era una libera, e io così, come ti ho macco, il padrone di casa, ma per dirti, no, per carità, guarda, sono di una scorrettezza, sei bravi quanto vuoi, parenti, tutto quello che vuoi, cugini, zii, eccetera, eccetera, nipoti, però guarda, ti posso garantire che no, non è possibile sopportare una cosa del genere. Poi c'erano i piatti da lavare, tutti i panini, e tutti i piatti sono dovevo lavare mia moglie, magari di 15 persone, tanto per darti un'idea, per carità, no? Boh, ho fatto, non ne facciamo più di campeggio così, capito? Avanti qua. No, ma no, non si può fare assolutamente. Cioè, non è più un rilassamento, è una cosa, il pigliare auguri. Capito? Una cosa è pigliare auguri. Se tu immaginati che mia figlia non è riuscita a invitare i suoi colleghi, allucinante. Per quello, facciamo tutto, abbasso il contattore e via, ci andiamo al Alghero. Ho preso una casa una settimana, il suo collega è libera dal Alghero e faccio una settimana dal Alghero. proprio dal 14 fino al 20, 20 o 21, non so, devo consegnare il 21 perché c'è altra gente. Così, nessuno sa, ne so, nessuno che mai fatto. Vai già. Già, di solito sì. Sarà il telefono. Bene Meda, KK. Vabbè dai. No, poi mi devo anche sistemare alcune cosette. Adesso fare venerdì. Venerdì. Allora che non traccarlo, devo portare un po' di materiale da, da controllare, da vedere. C'ho un po' tutto contro le scatole. Tutto imballato. Non ti nascondo che mi sta passando la voglia. La passione rimane, ma la voglia di stare in radio sta passando. I camper che diranno anche in affitto, se uno non ce l'ha di sua proprietà, te lo prendi in affitto, te lo prendi il camper e te ne vai dove ti pare di piacere, un giorno un posto, un giorno un altro posto, e nessuno ti trova così qua. Noi abbiamo parlato in due. Sì, ma infatti l'unica cosa è uscire e evadere, ecco perché te l'ho detto, adesso dal 14 al 21 me ne vado al ghetto. Ma Marco dice che sono di Sogo e si abbigliano in luce. Ti ho detto che mia figlia non è riuscita a invitare nessuno a casa, capito? Beh, infatti, fa bene che non invita nessuno, fa calendari, no. Guarda, tutto quello che vuoi, naturalmente non è che tu le mandi via, cosa fai, ci offendono, se, ma invece in questo modo non ti fai trovare e sei più tranquillo. No, buongiorno gratella, torno subito. Torno subito, no. E non mi sei andato, e non ti rispondo, dove sei andato, era Babbo Asia. Sto dicendo, a casa d'Alghero una settimana che c'è anche il giardino, bello grande, scelta apposta, così porto via anche il cane, capito? Non devo stare né nel turrano né barugano, c'è un cane appresso, si diverte anche lui, mi faccio una, se il tempo è buono, mi faccio una settimana al mare veramente, visto che non devo viaggiare, perché a me andare a viaggiare, andare al mare, a pigliare la macchina, andare a turrare, lì è proprio 50 metri, lì al Lido, capito? 50 metri, Romanzano, lui lascia la mano e mi sembra in spiaggia. Prima mi sistemo il cane e poi lui è libero, lì c'è il giardino, se ne sta lì tranquillo e noi ci andiamo al mare. E se no, io non sono andato a nessuna parte, cosa ben ci sono andato, a nessun luogo ci sono andato io. Beh, certo, no, ma guarda, oggi come oggi perlomeno io a mare non ci vado più. Quando ci vado la sera a fare due passi al fresco e basta, ma durante il giorno con il soleone, mai più, perché anche se non devo fare niente, seduto lì nella sdraio sotto l'ombrellone, ma ti stanca lo stesso, ti vado a piste, ti vado, per carità, la sera quando rientri sembri che ti hanno picchiato con un bastone, no, non me la sento più assolutamente. Me ne rimango a casa, poi se voglio uscire la sera, prendo la macchina, vado, mi faccio un giretto al fresco. Si immagina di mangiare un gelato, se mi devo bere una bibita, è l'ora più adatta quella. Ma al soldone, no, assolutamente qua. Un attimo, là. Io vi saluto che sto andando nella telefonata, sto andando all'ospedale a accompagnare di mia figlia che c'è un parente che hanno ricoverato. Ci sentiamo alle prossimine. Buona serata, grazie per il questione, anche se sono stato poco, mi dispiace, ma devo andare. Ciao, già, ci vediamo, niente di grave. Non lo so. Hanno ricoverato oggi e suocero di mia figlia, quindi sto andando a accompagnarla. Ok, va bene, già, d'accordo. Non ti preoccupare, grazie di risolvere oggi tutto quanto. Ciao, grazie a te della chiacchieratina, alle prossime. Qua. Ciao, già, ci sentiamo, Alle prossime. Va bene, mia figlia sta andando alle 7, ci ha appuntato il veterinario che deve pesare a Filippo, fare un controllo, che da molto non lo portiamo. E qui mi vedo già contento, è pronto, sci. Mettigli, l'abito la sera, mettigli a Filippo per portarlo sono veterinario. Come al solito, Marco, a quest'ora, non si sente. Marco c'ha la... c'ha ancora in coma, non lo so. No, ma lui è contento, lui quando va dal veterinario è contentissimo perché gli dà delle, le grocchettine, il biscottino, bravo, capito, infatti è contento, io avviati, dai la zampa, e dura la zampa a tutti. Se il cane è così abituato a casa, è certo che soprattutto con i suoi è chiaro che si offre bene. Magari quando arriva un fuori lo abbaia anche così. Ma c'è la bambolaia poco fa, oh, infettarete le vasi, ah, come se lo vedi, le parte, tutto le sta sopra, che devo fare cacci con la bombola? No, quelli che conosce è bravo, non c'è, poi adesso che è abituato, primo periodo era un po' difficoltoso, ma poi si è abituato, capito, perciò no, non ne ha problemi. Magari il bambolaio lo conosce anche, perché di solito gli animali sono così, se conoscono le persone va bene, si accetta, ma se c'è qualcuno che non conosce, qualche ringhiata gliela fa. Mario è il mio bombolaio, Mario e Antonio, è lì vicino a te, sempre via Pasqua, cos'è quella via dove c'è l'officina Walter, sempre lì è, ma porta sempre lui. Lo porta sempre lui, anche se è lontano, lui viene lo stesso, non ha problemi. Ah beh certo, io lo so, anch'io la prendo lì. Anch'io, ma io non la prendo di persona, ci vado io, tanto salgo tutte le mattine lì, me la carico. L'ho presa quando la settimana scorsa la bomba lì. Per cui la prendo sempre da loro, da Antonio o qualcosa. Io lo vedo Antonio, lo vedo e anche a Mario, passando lì da un succepi. Una decina di volte o 15 al giorno, tutte le volte che arriva lì all'angolo si prende sempre al mare, sempre di essere un caffè o a ciucciare, ecco Guizzi lì. Antonio, non Mario. Antonio, capita, Antonio beve, e si sente anche l'odore dell'alcol, se ti avvicini a lui durante la giornata già si sente. E peggio di Walter lo stesso, è di buio, anche passeggeri, è più male di cura, bubu. Già la fa la staffetta anche lui lì vicino a te, quel bar che c'è vicino a te, dai, lì dove c'hai la bottega. Sì, no, a me non mi vanno queste cose, assolutamente. No, Mario me la porta, Mario. Quindi l'ho dato due e me ne ha lasciato due. Capito? Proprio non me la lascia neanche, me la attacco io. E ci rimpianto fuori. Mi ha portato via due e me ne ha lasciato due. Vabbè. E quindi... E a volte salta anche sopra, infatti non se la mette mai a collo la bomba, anche lì cacci, la porta in mano, capito? In modo che ricuia anche il colpo di bomba e si avvia, ma le sta sempre sopra, una cosa allucinante, ormai lo conosce, quindi è così, vabbè. Quindi Marco non si è sentito, non si è sentito nessuno, no io ti ho sentito chiamare poco fa, però ero distante e non potevo risponderti, infatti ho chiamato subito dopo, mi ha risposto Gianni. Io avevo abbassato il volume, stavo guardando la televisione, stavo guardando, dopo 24, per cui... Poi ho riaumentato il volume, cioè se qualcuno si sente. Vabbè, adesso ho sentito lì, in PNR, adesso è entrato Graziano. Anche lì ho chiamato un po' calcio, guarda, che siano lì. L'ho chiamato anche su 23, tutti molti, non erano riusciti, una parte o dall'altra. Non so, ma quando noi siamo qua a 10 sto notando che c'è poco traffico sul 23, sono in ascolto qua, non lo so, ma per carità è una cosa dovuta, per lasciare proprio libero il canale a loro, farsi due chiacchiere tra di loro, io ero sempre qua e quindi adesso che sono più tranquillo, dai, hanno sistemato un po' le cose, rimaniamo nuovamente qua, così loro si devono chiacchierare per i fatti loro, parlano tranquillamente senza stare noi a fare pinghi pong e bimbobà. KK, vabbè, hai visto la battuta che ha filiato Napoli, eh? Io ho la sensazione che prima che si assisti bene il Napoli e più di uno ne parlerà di partita, perché questa è già la terza, anche se le prime due le ho vinte, però le ho vinte subendo due gol, poi magari con un gol è riuscito a rimontare sia il Milan, colpa del Milan, perché si è fatto rimontare, e anche l'altra squadra. Ma ieri la Sampdoria invece l'ha proprio messa alle strette, la Sampdoria ieri capita 3-0, bombo, non è possibile. Praticamente ha subito 7 gol, ha subito in 3 partite il Napoli, è così. Sì, ma non ho visto il gioco, non ho visto niente, nulla, non capisco questo calo che ha. È come l'Inter manca un centrocampista e il gioco non è bello, non è, sì, ha segnato, ha vinto 3-0, però non, ma guarda, sinceramente parlando, nessuna squadra ho visto ancora bella attiva, bella, non ho visto nessuno, sinceramente. Non ho visto una grande Juve, non ho visto un grande Inter, Napoli, Roma, la Lazio ha vinto 1-0 proprio il tracco barato. Cioè no, un campionato molto molto molto strano quest'anno, sinceramente. Sì, beh certo, ancora sono le prime battute, sai, dopo il mondiale si sa, i giocatori ancora non si sono ripresi al 100%, no, per quanto riguarda il Napoli. Io ho pensato, ma probabilmente il Napoli sono stati spinti molto l'anno scorso questi giocatori, perché Sarri li ha tenuti molto molto molto, e quest'anno a quanto sembra non vanno più come prima, non vanno, anche se Ancelotti è un grande allenatore, però è tutta un'altra musica. Il gioco di Sarri, tanto il gol Sarri già 4 partite su 4 ho vinto con Chelsea, cioè in Inghilterra. Indubbiamente il gioco di Sarri è molto, molto bello, ma è anche molto molto dispendioso. Però il Napoli è sempre una grande squadra, e anche l'Inter quest'anno, e anche il Milan ci metto. Un po' meno la Roma, perché la Roma secondo me ha sbagliato a vendersi intanto a Nainggolan, e poi l'altro, Sulman, come si chiama, no, Strootman, capito, anche quello, tanto loro gli sono mancati tutti e due, non va bene, vabbè, per sbagliare. Sì, ma infatti è una cosa un po' generale il fatto che ancora il campionato non sia nel vivo, non sono partite, no, nessuna squadra è partita con i grandi fuoriclasse, anche il Milan, Higuain, non è ancora, insomma, ben messo, così Ronaldo, così, ma ti ripeto, molte squadre sono ancora molto indietro, molto molto indietro. Ronaldo, dicono che anche con Real Madrid ha iniziato a segnare dalla sesta, ottava giornata, mi sembra, ma speriamo che sia così, ma non so, perché a questi livelli la Juve sì, potrebbe vincere il campionato, ma io a questi livelli di Champions non ce la vedo proprio. Beh certo, ancora sono tutte in fase di assestamento, ma anche le squadre straniere sono tutte in fase di assestamento ancora, non è che si può dire niente, si sa, ma in tutti i campionati se la squadra, tutto per venirsi la forza della squadra, bisogna che facciano almeno 10 partite, guarda, tutti all'inizio del campionato, ma in tutti i campionati. Allora sì, si può capire cosa c'è di buono, cosa c'è che non va. perché si sa, Ronaldo lo sappiamo, Ronaldo adesso è sotto le luci dei difensori, lo marcano in tre, lo marcano, è chiaro che non ha molto spazio. E poi Allegri ancora non gli ha dato un ruolo definitivo, si sa se lo fa giocare a centrale, se lo fa giocare a sinistra, se lo fa giocare a destra, ma anche non usare cura, ma non è possibile. Questo fatto di cambiare continuamente il gioco non è che mi piace molto. Tant'è vero, sta subendo, guarda che la Juve ha già subito tutti i gol. Quando pensi 2 anni fa, non l'anno scorso, ma 2 anni fa, quanti gol ha subito quest'anno? 3 gol mi sembra che ha subito. L'avevo subito in tutto il campionato, mi sembra, c'è così. E adesso con le prime 3 partite ne ha già subito 3. Ma no, non sono d'accordo. Lui deve giocare per Ronaldo, perché Ronaldo rende solo se giocano per lui. Lasciare che gli altri devono lasciare lo sbordo, perché possono dire, ma anche noi siamo della Juve, anche noi siamo campioni. Sì, ma non hai capito che tu hai lì un cannone, hai lì, pronto a sparare, e se gli dai palloni ti buca per forza. Qualcosa ce l'ha fatta, non è che non l'ha fatta, qualcosa, dai, qualche gioco ce l'ha fatto vedere, un bel tiro, insomma, qualcosa sta facendo, però deve ancora praticamente migliorare, nel senso deve segnare, capito? Deve segnare, perché lui è stato comprato per fare gol e fare un rischio per pensare agli altri. Appunto, è quello che dico io, perché se noi aspettiamo un gioco da Ronaldo, non si devono aspettare, da Ronaldo si dice che siamo gol e basta, e la Juve si deve aspettare gol. Non è perché lui è stato comprato per quello che vuoi, e se lui fa gol la squadra vince sempre, non c'è da fare. Ma in compenso c'è il figlio di Ronaldo, che adesso sta giocando con la Juve Pulcini, e ieri ha iniziato il suo campionato e ha fatto 4 gol, il figlio di Ronaldo, un ragazzino che non ha nemmeno 9 anni, invece 8-9 anni. Sì, l'hanno fatto vedere l'altro giorno a Sky l'hanno fatto vedere, sta promettendo bene, e vabbè, ma a me non me ne ha fatto un dato migliore, a me interessa Edo, è stato pagato tanto, è stato voluto tanto per dare quella grinta in più in avanti, quel spettacolo di gioco, però ancora non vengo nuda, ma speriamo che si sblocchi e che segni, cosa vuoi dire? E già si sblocca, la prossima partita vedrai che segna, vedrai la prossima partita contro il Sassuolo e vedrai che segna Ronaldo, perché adesso abbiamo praticamente non più una settimana per la preparazione, ne abbiamo due settimane, perché la prossima settimana c'è la nazionale, dunque non si gioca. Adesso si gioca, il giorno 16 si gioca, per cui c'è modo di applicarsi meglio e di capire anche il gioco della Juve, e anche i giocatori degli altri devono capire il gioco del Ronaldo. Vedrai che adesso si incomincia a fare sul serio veramente, anche perché fra un po' inizia a giocare ogni 3 giorni, non ogni settimana. C'è il Manchester subito da affrontare e non è che ci vuole molto. Il 19 mi sembra che giochi con l'inizio alla Champions. Sì, ma adesso tu vedi, cioè in nazionale si riprende il 16, però in settimana c'è la nazionale ed è convocato Bonucci, Chiellini, c'è Bernardeschi, cioè quei giocatori che sono essenziali, soprattutto i 2 difensori principali, magari fanno una partita brutta perché sono stanchi o perché hanno imbigliato qualche colpo, capito? Sta nazionale italiana è una rottura di scatole. Lo so, indubbiamente se riposassero sarebbe meglio, ma non tanto perché magari sono stanchi, perché stanchi proprio non sarebbero, perché Bucci non ha fatto mondiali, Chiellini non ha fatto mondiali, altrettanto Bernardeschi, per cui non sarebbe nemmeno quello, salvo che per una questione di tattica magari, che si perde una settimana di tattica, si perde, perché questa settimana loro vanno con la nazionale e dunque la Juve si allena lo stesso, ma non ci sono loro presenti, ma non credo. Comunque Chiellini ha dimostrato di essere già in forma, un po' meno con Bonucci, ma anche Bonucci già se ne prende, ma lo sappiamo, Bonucci funziona molto bene con la difesa 3, invece stiamo giocando a 4, ma si inserirà, vediamo, speriamo bene, anche perché si deve mettere in testa di mettere Cancelo, si deve mettere non Quadrado è un laterale d'attacco, non un terzino puro, o anche Cancelo, però Cancelo sa fare tutti e due i giochi, sia in attacco che in difesa, è sicuramente migliore, speriamo bene. Infatti io continuo a non capirlo Vitaleschi, lui continua a dire che c'ha due squadre e che tutti devono giocare, ho capito, però nel senno di poi io non capisco se qual è la prima squadra, non lo so, cioè Cancelo è stato preso per giocare da titolare, dalla scorta è stato preso, è rimasto per giocare da titolare, cosa me lo fate nel secondo tempo, ma Buffone dice, c'è il lancio che fa da Scosta a Ronaldo e si veniva da già quando li faceva per Higuain, cioè non so uguale a chi si di Quadrado, io, ma finiamola, e Cancelo sulla fascia non è uguale a Quadrado, ma cosa si muove a vedere? Il primo posto c'era Alessandro, non lo so, a me il gioco di questo allenatore sinceramente parlando non mi è mai piaciuto. No, non è un allenatore che è molto bravo facendo giocare la squadra, è bravo perché ha gli elementi e la Juve vince per quello e lui ne approfitta per quel motivo lì, però in realtà lui non è, secondo me lui non è un grande allenatore, è un buon allenatore, questo sì, e ritorno a dire sempre quello che avevo detto una volta a Zampalini quando lui non metteva Dybala. Dybala è un fuori classe, Allegri no, e ha ragione, io dico che ha ragione Zampalini. Comunque secondo me no, fa male a mettere da parte Dybala, non va bene, queste due partite che non gli ha fatto fare, no? Perché gli ha fatto fare gli ultimi 10 minuti questa settimana, e non va bene, io dico che Dybala non deve far giocare, perché non ci dimentichiamo che l'anno scorso Dybala era il capocannoniere della Juve, ha fatto 21 gol mi sembra, o 18 o 21, non ricordo bene, per cui non si deve mettere in testa di mettere da parte Dybala, sì, sarà un momento magari che è un po' di cosa, c'era di sbandamento, forse non lo so, forse la bestina nuova che ha fatto, che adesso so solo che non devi far giocare, siamo all'inizio, non devi far giocare, al posto di Quadrado secondo me dovrebbe giocare Dybala e non Quadrado, e Quadrado deve riposare, giocare in difesa Cancelo, poi naturalmente anche Quadrado quando con tempo non devi inserire di nuovo, perché quello ti spacca la partita, ma c'è anche Bernardeschi però, e se non si scelta Dybala Bernardeschi viene a prendere il posto, Bernardeschi sta giocando bene, è in grande forma, è lì che mi preoccupo, capito? È lì che mi preoccupo, perché Bernardeschi cioè, può tirare da fermo, può tirare in corsa, è un bel attaccante. Non lo so, non ho capito perché non ha fatto giocare Dybala. A Sky stavano dicendo che sembra che ci sia nuovamente, come l'inizio del campionato l'anno scorso, ci sia qualche attrito con Allegri. Non lo so, lui questo lo sapeva, che l'arrivo di Ronaldo, o lui o Mandzukic, dovevano giocare. A lei che sta prestando male, Zucchici, perché già lo vedi, è un guerriero, non ce n'è per nessuno. Quindi non lo so cosa succede. Non lo so. Attenzione che per Dybala c'è già l'Inter pronto, C'è già l'Inter pronto da affiancare a Icardi. C'è già l'Inter pronto, l'hanno detto a Sky, che l'Inter è pronta a prendere Dybala da affiancare a Icardi, Quindi togli attento a lei e a Chirubelli, Ma io dico che all'Inter giusto io non lo darà mai Dybala. La preferenza lo dà a Barcellona, perché anche Barcellona lo vorrebbe, o altre squadre, ma non all'Inter, non credo che la Juve faccia come ha fatto il Milan, che l'ha rinforzata, non credo assolutamente. Comunque, sarebbero anche da stupidi, dopo il fattaccio del Calciopoli, e io mi ricordo anche i giocatori, ma manco bisogno, figurati se l'avrei dato mai il giocatore all'Inter, mai, eppure mai, no, assolutamente. Poi c'è anche da dire questo, c'è anche il Borna Scossa, che quello è un fenomeno lo stesso, e quello va fortissimo, va. Però si sa, devono giocare in 11, anzi in 14, con le tre sostituzioni. Però queste sostituzioni se le devi fare, non le devi fare a 7-8 minuti dalla fine della partita, come ha fatto per Dybala. Dice, ma Dybala quando è entrato ha fatto bene. E lui non ha fatto bene, era fresco. Gli altri ormai erano già stanchi. Ma non è così. Poi mi togli a Pjanic, che è il più forte, l'unico, il più forte di tutti, insieme a Matuidi, mi lasci Chiellini, che è un morto, con Chiellini è un morto. Io ho sempre detto, questi giocatori tedeschi per me non mi sono mai piaciuti proprio, qualcuno veramente va bene. Adesso saremo a vedere come funziona anche questo Chan, perché anche quello è tedesco e io non è che ho molta fiducia nei giocatori tedeschi, perché tutte le volte che compro un giocatore tedesco fallisce sempre con la Juve, chissà perché per quale motivo, boh. Ah beh, ma voi cosa ne fate? C'è Bentancur che può coprire il ruolo di Pjanic, infatti la salienta, la duetto, non lo so. Io te lo sto dicendo, c'è anche Real Madrid che vola Dybala, quindi bisogna vedere quest'anno cosa succede. Arriva Ronaldo, ha scombussolato un po' tutto, però io penso che gli attaccanti siano quelli. Adesso sta provando, perché lui ha fatto una dichiarazione a Sky, perché la domanda gli hanno fatta, come mai da che ascolta non è titolare, lui ha detto che c'ha 22 giocatori, quattro attaccanti, quindi deve provare tutti, deve vedere, deve sapere, deve essere sicuro che la squadra sia formata per affrontare questo grande campionato, perché la verità è un grande campionato. Adesso vediamo, però io sono sicuro al 100% che Douglas Costa sarà titolare, Dybala sarà titolare, però il problema è che adesso c'è un attaccante in più, quindi se la devono giocare Dybala, Bernardeschi e Mandzukic, è lì il problema, capito? E Cancelo deve fare il suo ruolo, perché è stato preso per giocare, si è visto che quando scende, come scendeva Lichtsteiner, non ce n'è per nessuno, cioè io l'ho vista la differenza tra Cuadrado e Cancelo, ma c'è un abisso. Beh, certo, quello sì, lo so, e appunto lui deve mettersi in testa, cioè se un grande allenatore cosa fa? Questa settimana devo incontrare, tanto per fare un esempio, il Milan. Allora, il Milan ha queste caratteristiche. Per fronteggiare le caratteristiche del Milan ci vogliono questi giocatori, ci vogliono. Ecco, allora, se lui riesce a fronteggiare e a vincere in questo modo, allora lo posso anche considerare un grande allenatore. Però questo fatto che preferisca ad esempio anche il Decidio, ma la domanda mi voglia, Decidio mi voglia giocare, ma non vede che Decidio non va bene, nemmeno il 16 va bene, non solo il 6A, per dire, no. E appunto l'anno scorso l'ha voluto lui, di prepotenza l'ha voluto, 12 milioni l'ha pagato dal Milan. Ma cosa se ne fa di vicino? Ma vendi Dio subito, cosa se ne fa? Non serve a niente. Intanto quello, è passo lui che lo fa giocare, ma per le qualità che ha vicino non dovrebbe mai giocare, nemmeno una partita, ma nemmeno per con la riserva, con la Juve. Per carità, no, ha delle idee strane, ha delle idee strane, non è un grandissimo allenatore, la verità, assolutamente. È un caso mai, può essere un selezionatore, ma non un grande allenatore, nella maniera più assoluta. Guarda, vedi che con Sassuolo gioca De Sciglio, perché l'ha detto l'altro giorno, adesso ha recuperato anche De Sciglio, è già nella come si dice, nel gruppo, e si sta allenando, si è ripreso qui e là. Avrei visto che lo Sassuolo fa giocare De Sciglio, avrei vedetto me, fa qualche turnover, e attenzione che il Sassuolo non è squadra da turnover, non ci scherziamo, perché il Sassuolo è una grandissima squadra. No, perché sanno, non li può fare, è inutile che... Hai visto il Cagliari? Eh? Il Cagliari a Bergamo cosa ha fatto? Ha scritto l'Atalanta, l'Atalanta è una delle favorite, l'Atalanta era una delle favorite, purtroppo è un po' demoralizzata perché è uscita dall'Europa League, però l'Atalanta è una grande squadra, e il Cagliari è riuscito a pigliare 3 punti a Bergamo, capito? Quindi squadra di materasso quest'anno non ce n'è, ma non ce n'è per nessuno. Sì, beh certo, quello sì. In effetti è vero, sì, il Cagliari ieri ha fatto una buona partita e avrebbe potuto vincere anche 2-0, perché c'è Sau, che non capisco, a 1 metro dalla porta ha trovato un pallone, l'ha toccato di piatto, anziché mandarlo in porta l'ha mandato proprio fuori completamente, e lui era proprio, insomma, se lo faceva apposta, sbagliato, non avrebbe potuto sbagliare, eppure l'ha sbagliato. Ha sbagliato, non sa, forse ha perso la coordinazione, non era coordinato bene, era solo, davanti al portiere, l'ha toccato di piatto, chissà com'è andato, l'ha buttato fuori, e dunque anche il Cagliari ha rischiato, perché ieri Cragno l'ha salvato, il Cagliari, Cragno in questo momento è in grande forma. Sì, tornando al discorso dei portieri, c'è Szczęsny, per conto mio, che al momento non è un grandissimo portiere, si sente la mancanza di Buffon, si sente, però abbiamo Perin, che Perin, per conto mio, forse più bravo anche di Szczęsny, solo che la Juventus ha dato la parola a Szczęsny e lo fa giocare il titolare, e Perin chissà quale partita la farà. Ma infatti, te lo stavo dicendo io, c'è un accordo, perché Szczęsny voleva andare via, ha detto no, quando va via Buffon tu rimani, quando va via Buffon tu fai il primo portiere, però Perin, ma no, Perin manca paragone con Szczęsny, infatti ha visto il convocato in nazionale, ma manca paragone, cioè le parate che ha fatto vedere in quelle partite di esordio della Juve, anche nelle amichevoli che ha fatto la Juve, ma ne manca paragone, perché è andata bene con il Parma, è andata bene col Parma, perché ha fatto 2 papere, per me era partita da 2-2, te lo sto dicendo, quindi la mia paura è anche quella che il portiere ancora non è adeguato per la squadra, assolutamente, io avrei preferito Perin, ok, avrei fatto fare una partita a uno, una partita all'altro, una partita a uno, una partita all'altro, però partite come stai dicendo tu dove c'è più sicurezza, ma quando c'è una partita col Napoli, col Milan, con la Roma, con l'Inter, io avrei fatto giocare a Perin, perché Perin vola molto di più e molto più attento in porta. Sì, anch'io preferisco Perin, soprattutto l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, era forse il miglior portiere della Serie A, anzi senza forse, non a caso la Juve se l'ha subito comprato, perché si è resa conto che è un grande portiere, indubbiamente. Chi è un pochino in fase discendente è Donnarumma quest'anno, non riesco a capire, questo ragazzo il primo anno era fortissimo, l'anno scorso così, e quest'anno lo stesso, non è che non è che è partito molto bene, però è giovane e dunque ha tutto il tempo per crescere, questo senz'altro. Io penso, se continua così, Donnarumma deve prendere il posto Reina, sicuramente, perché quello è bravo come portiere, e anche se è più anziano, però è bravo e è pure molto più esperto di Donnarumma. Reina è un ottimo portiere, in Napoli mi sembra che sia l'unica squadra che ha preso meno gol di tutti l'anno scorso il Napoli con Reina. No, meno gol l'ha preso la Juve, li ha presi, Napoli secondo magari, come gol subiti, la Juve che ha subito meno gol e ne ha fatto anche di più del Napoli, con 3 punti, e quello, cioè praticamente ha vinto tutto l'anno scorso. Anche in fatto di gol, l'unica cosa che non ha vinto è il capocannoniere, che l'ha vinto Immobile, perché Immobile è andato fortissimo, è andato l'anno scorso, e quest'anno sembra che sia partito anche quest'anno abbastanza bene. Saremo a vedere cosa succede, ma quest'anno ha la concorrenza di Ronaldo, perché io sono convintissimo che adesso in tutto questo mese di settembre Ronaldo si sblocca, anzi si sbloccherà nella prossima partita sicuramente, e appena che si sblocca diventa una mitragliatrice, diventa, guarda, vedrai. Guarda, io ci spero, Giulio, ci spero perché vorrei appunto che lui già iniziasse a far vedere qualche suo bel gioco, però ti ripeto, non ho visto ancora niente, sì, qualche colpo di testa volante, qualche tiro al volo, un bel tiro in porta ha fatto, però è troppo marcato. Ma non hai visto Golubar, ma a Giovanni non aveva detto cappalla? Sì, appunto, perché non mancavano i tre uomini, ma cercavano i tre, anche quattro o tre volte, è chiaro che non aveva spazio, ed è per quello che è il compito dell'allenatore, trovare la posizione dove lui possa partire da più lontano, dove trova più libertà, non lo puoi far giocare centrale, a centro ci sono tutti i difensori, maggiori, invece se si parte dalla sinistra o dalla destra anche, ha più campo, anche perché lui è bravissimo a tirare anche da lontano. È quello che dico io, quello è il compito del lavoratore, mettermi in condizioni di rendere di più al massimo, ma se me lo metti centro avanti, di punta a punta, no, andare, tu mi dirai, ma di punta a punta io, guarda, addirittura avrei provato, di punta a punta avrei provato, addirittura di bala io avrei provato, ho messo un poco, avrei messo poi Ronaldo a destra, avrei messo Mandzukic a sinistra, perché a mettere il centrale Mandzukic non va bene, perché Mandzukic non segna molto, segna una volta ogni tanto. Questi due che ha fatto adesso sono riuscito a farli, sai perché? Perché liberava il campo, liberava Ronaldo, perché aveva tre uomini addosso a lui e si trovava libero lui. Ad esempio il gol che aveva seduto un portiere, aveva seduto Ronaldo, è carambolato sul suo sinistro, sul tacco sinistro, si è trovato Mandzukic libero, solo soletto, e ha segnato. E così questa settimana lo stesso. Ecco la differenza. Si trascina gli uomini, si trascina i difensori e si liberano gli altri. Ma io preferisco che segni lui, perché lui è quello comprato apposta per segnare. Però dipende sempre dall'allenatore, cercare di metterlo in condizioni che lui possa essere più libero, non marcato così in maniera asfissiante. Sono d'accordo con te, è così, la realtà è quella, però ti ripeto, è marcatissimo, stanno molto attenti. Vabbè, quel gol che ha fatto Mando, che c'era di Ronaldo, e che si è ingrigliolata, lui voleva girare di tacco e si è ingrigliolata e non è riuscito a metterla dentro. Chiaro che Mando che c'è, da guerriero era lì e si è accolta dentro. Bellissimo il gol ieri di Quagliarella, proprio come faceva Ibra, no? Il gol di Ibrahimovic di tacco, bellissimo quel gol di Quagliarella ieri, non so se l'hai visto. Sì, l'ho visto, un gol di tacco, il terzo gol, certo, è bellissimo, sì, in effetti era bellissimo quel gol. E beh, sono venuti a succedere queste giocate così, perché non è tutti i giorni che si possono fare giocate del genere. È un po' come la rovesciata che ha fatto Ronaldo contro la Juve, non è che tutti i giorni dove si fanno queste giocate così. Sono tanto semplice, anche se Ronaldo l'ha fatto diverse volte, ma le ha fatte in Spagna però, le ha fatte. Adesso vediamo un po' se le danno il premio per il miglior gol dell'anno scorso, o della Champions soprattutto, cioè il primo Puskas, quello sarebbe il primo Puskas, sarebbe. Sicuramente lo vince Ronaldo, perché lo vince a Maragana, anche se i giornalisti quest'anno e gli allenatori quest'anno a quanto sembra sono orientati più su Modric che su Ronaldo. Non si rendono conto che Ronaldo ha vinto la Champions, ha fatto il gol più bello dell'anno, ha fatto 400, ha fatto oltre 40 gol, 45 gol, ha fatto, non lo so io. Tutte queste cose non contano. E Modric cosa ha fatto? È entrato secondo al mondiale e ha vinto la Champions. Ma la Champions l'ha vinta soprattutto perché Ronaldo ha fatto 45 gol e ne ha fatto 15 in Champions. Ecco qual è la differenza. Io non so con quale criterio hanno votato Modric quest'anno, secondo me. Ma lì infatti non ho capito io perché hanno votato a Modric e non a Ronaldo. Il Real Madrid l'attaccante è Ronaldo, Modric è un centrocampista, quindi vabbè, il centrocampo è quello anche che comanda, la regia è quella. Però non capisco perché, ecco perché lui non si è presentato. Infatti non si è presentato perché si è arrabbiato e ha fatto, secondo me ha fatto, non gli ha dato la soddisfazione di averlo presente lì. Anche se molta gente dice si doveva presentare lo stesso, ma non è vero, ha fatto bene secondo me a non presentarci, perché questa gente qui merita anche di peggio. Caspita, Modric perché ha vinto? Perché non hanno fatto 15 gol, 15, non uno, no, 15 gol in Champions. Non è che in Champions quando ne fanno molto gli altri ne fanno 4, 5, 6, e non ha fatto 15. E se Modric ha vinto perché è Ronaldo che l'ha fatto vincere, non è Modric che ha fatto vincere a Ronaldo, perché casomai l'ha fatto vincere di più, secondo me, più Cancelo che Modric, perché Cancelo gli ha dato tanti di quei palloni a Ronaldo in Champions, cazzo, perché gli ha fatto fare tantissimi di quei gol che non finiscono mai, per dirti, no? Io non capisco con quale criterio abbiano votato a Modric, solo perché è arrivato secondo ai mondiali, avrei potuto capire, ha vinto il mondiale, ma non ha vinto la brazza del mondiale, lui è secondo posto, vale meno di niente praticamente. Un attimo di spazio, non entra nessuno. Non lo so perché l'ho visto sta premiazione, ho detto Modric sicuramente per quanto riguarda il mondiale, ma poi ho capito che c'era qualcosa che non andava, vabbè. Ronaldo è una persona seria, non è un bugigattolo, cioè lui gioca a pallone perché sa giocare, non è uno di quelli che poi, poche volte l'ho visto perlomeno ammunizioni, risse, cose così, non l'ho mai visto. Modric è un poco vittorioso. Infatti, quello sì, è vero. Sì, e beh, l'anno scorso ad esempio è vero che ha segnato dopo 7 partite Ronaldo, però le prime 4 non le ha fatte perché è fortunato, mi ha fatto 4 partite fortunato, sicché vedi bene che ha incominciato a segnare la 7ª partita. Capita, tutte queste considerazioni non si devono fare. Ti ha fatto 40 gol, anzi ne ha fatto 45, ci ha fatto in tutti quegli anni ha fatto 452 gol in 420 partite con il Real Madrid, l'ha fatto, e da 9 anni sulla cresta dell'onda per sempre. Tu non la dici, ma non ha vinto il campionato con il Real Madrid? Sì, ma ha vinto il Champions, ha vinto 3 anni di fila, 3 anni, non una busta, 3 anni, e lui ha fatto una valanga di gol in questi 3 anni. Insomma, nell'ultimo campionato hanno fatto 15, nell'ultimo Champion. Capita. E ripeto, questi francesi, perché la maggior parte di questi giornalisti sono francesi, quelli che fanno queste votazioni, ma sono dei burracci, compreso Platini, che anche lui ha criticato, dice non capisco la Juve per quale motivo, dice ha comprato Ronaldo che ha 33 anni, io mi sono ritirato a 32. E beh, cosa vuol dire? Che discorsi sono questi? Tu ti sei ritirato a 32 perché eri dovuto ritirarti a 32. Grande giocatore, indubbiamente, tutti quanti l'abbiamo riconosciuto, come è stato un grande giocatore. Ma ancora Ronaldo, nonostante i suoi 33 anni, sembra un giocatore di 25 anni, e questa è la differenza che Platini non ha voluto capire. Probabilmente è geloso dei soldi che prende Ronaldo e che lui non li ha mai potuti prendere con la Juve. Infatti è così. Aspetta un attimino giù che devo tirare sulla tenda del coso. Adesso te la tiro. Aspetta che devo tirare sulla tenda che deve stendere. Ok. Marco, ha sempre dato un mistico il buccio. Marco, dormiglione. Marco, dormiglione. Marco, il dormiglione. Chi è avanti? Chi è? Chi è con questa portantina? Chi è avanti? Chi è questa portantina? Avanti, il tuo bellino, ma è? Eccomi qua. Eccomi qua. Così è comunque, ce n'è da fare. Appunto. Io, guarda, per Murri ci avrei preferito, Salah avrei preferito, perché Salah con Liverpool ha fatto un valore di gol, ha fatto l'anno scorso. Capita. Liverpool, anche lui, è entrato in finale, è entrato. Per cui, di esempio, la buona l'ha persa, però, per dirti, Murri, sì, un gran giocatore, indubbiamente, nessuno gli toglie niente, per carità. Però, secondo me, il merito è più degli attaccanti. Come Salah è un attaccante che è fortissimo, è veramente forte, è già forte con la Roma, con il Liverpool poi è diventato fortissimo. Speriamo che continui così, se no pazienza. Vabbè, lì si deve vedere chi è il migliore, e dare soprattutto un significato anche ai giocatori, perché è utile che tu sai che quello è migliore, però dai sempre il miglior giocatore, quello e quell'altro, come hanno vantato tantissimo questo centrocampista della Lazio, Milinkovic Savic. Io non l'ho giubito così forte, ho giubito la Lazio molto molto scadente al centrocampo. Sì, e ancora la Lazio non è in condizione buona ancora, e non è assestata bene. L'anno scorso gli ha giocato molto bene con Milinkovic, però ha fatto un mondiale scadentissimo, proprio non si è visto proprio al mondiale, proprio nulla, non c'era, non so per quale motivo, però con la Lazio ha fatto un bellissimo campionato. Adesso quest'anno ancora non è per niente in forma, ma non solo lui, ma tutta la squadra della Lazio, anche se i giocatori ce li ha, e suppongo che riesca a sistemare il lavoratore, perché la sistema è sicuramente, la Lazio è sempre stata una buona squadra, saremo a vedere comunque. E appunto, come ti dicevo prima, però ancora non ho visto niente di che. Questo grande gioco, sì, è chiaro che c'è un bel attacco, anche una bella difesa, un buon centrocampo, però questo giocatore che volevano vendere a 120 milioni di euro, non ci vedo tutta questa tecnica e tutta questa bravura io, chiaramente da spettatore, poi è chiaro che noi che guardiamo non è che possiamo valutare come può valutare uno che è in campo, un allenatore, è una dirigenza. Noi da fuori, perlomeno io da fuori, ho visto che non è un grande elemento, ce ne sono molto molto meglio di lui i centrocampisti. Ah beh sì, sicuramente ce ne sono meglio di lui, sì, non ci sono dubbi, glielo dico. Comunque, a quanto sembra, sta mettendo pressione sia a Pogba, che vuole tornare alla Juve, e a quanto si dice, perlomeno in Spagna, si dice ad alta voce, si dice che Marcelo è verso la Juve. A me non dico adesso il livello, ma al prossimo anno suppongo che Marcelo vada alla Juve, perché lui vorrebbe venire a giocare con Ronaldo. Staremmo a vedere se riesce a prenderlo. Se prende Marcelo, allora sino adesso Marcelo è stato straordinario, io lo considero un grande terzino e soprattutto da man forte, ma da tanta, però tanto al centrocampo, con quei trasgressioni che dà verso Ronaldo, da quasi va poco di voglia, capita, è straordinario quel giocatore. È feo, con la testa di cappello, ma non c'è stato niente di quello. Pensate che lui giochi bene. Si raggia bene. Ma se dovesse veramente essere così, stai pur certo che un bel Mondetta deve sparire dalla Juve. È inutile che continui a comprare i giocatori e si tiene quelli che ha, capito? Perché allora puoi fare veramente sia l'attacco che le due fasce con le contropalle, scusando il termine, perché se fai da Grascotta da una parte e Marcello dall'altra parte, con Ronaldo, Dybala e Mandzukic in attacco, tutti gli altri vanno a stare a casa. Andate a casa, non mi serve più nessuno, capito? Con Pjanic e Bentancur a centrocampo, se fai un centrocampo a due lo puoi fare anche a tre, la difesa ce l'hai, Bonucci, Chiellini, Barzagli, se c'è Barzagli, ma può giocare anche l'altro. Quindi di cosa siamo a vedere? Quella è una squadra, ma deve essere sempre quella, sempre, non si cambia più, si cambia solo se necessita, perché uno è stanco o perché è infortunato, per il resto quella deve essere la squadra, basta. Ma senza Marcelo, metti a quello che è stato comprato dall'Inter, Douglas Costa dall'altra parte, quella è la squadra, con l'attacco a tre e il centrocampo a tre o a due, finiti. Infatti è così, anch'io sono d'accordo, per me Cancelo vuole giocare sempre, capita, invece si attenta al decido e si è venuto a Rugani, tanto vuole farti messo Rugani anziché che il decido, non lo so io. Cazzo, vabbè, Rugani l'ha venduto 40 milioni e ha fatto un bel incasso, indubbiamente, d'accordo, però anch'io sono con l'idea, lui deve stabilire una squadra che è quella, la titolarissima, poi anche gli altri considerati sempre giocatori titolari, ma solo in caso di necessità, ecco, come hai detto tu, verso la fine della partita, quando un risultato magari è già assicurato, puoi anche cambiare, indubbiamente, fammi giocare in Coppa Italia, tutto quello che vuoi, però la squadra deve essere quella, lo sa tu, la migliore è proprio quella. Sono lì ed è innamorato sia di Decido, di Chiedira e di Mandzukic, ma io per Mandzukic sono d'accordo anch'io, ma di Chiedira proprio, lascia perdere, che a me non mi è mai piaciuto Chiedira, è lento, sarà anche un giocatore di classe, ma è lento, la mendici, e mi rimane nella battesciuta da capo 10.000 volte quei ragazzi lì, ripeti. Sto dicendo, tu vedrai che col Sassuolo gioca De Sciglio, tu avrai a vedere, vedrai tu, lui col Sassuolo fa un turnover, perché già si sta preparando alla partita con Manchester United, tu vedrai, perché il 16 c'è la partita, mi pare il 19 inizia la Champions, e la prima c'era col Manchester o col Valencia, adesso non mi ricordo. Con Manchester, allora, con Manchester la prima è. Sì, intanto è così. Ma adesso staremo a vedere. Speriamo che diventi un allenatore assennato, ma che è un pagarito lì, che chissà come si chiama con la ragazza del Felipe di Ungabo, Ambra mi pare del Felipe di Ungabo, Bobo. Era orientamente pensando un sciabizzino, vanno i 20 anni di differenza, non so. Guarda, adesso tu prendi a Gattuso che è stato un bravissimo giocatore col Milan, ha fatto un cambio eccezionale, capito? E l'ha già dichiarato a Sky, il mio attacco, Cutrone, Higuain, non c'è niente da fare, l'ho già provato, Cutrone con Higuain va benissimo, e vedrai tu che l'attacco sarà quello. Quando tu provi il giocatore e vedi che va bene, c'è entrato Cutrone con Higuain, due passaggi, boom, dentro. Cioè, come fai tu a lasciarmi a Dybala in panchina? Come fai? Fai Ronaldo, mando chi ci Dybala, fai l'attacco a tre, perfetto. Da una parte metti Douglas Costa e dall'altra parte metti Cancelo. Boh, basta, chi si riquadra? Non è che ci sono molti giochi da fare. Gli altri stanno in panchina. Infatti, purtroppo lui ha nessuna idea, ripeto, lui è convinto. Io sono sempre dell'idea che la squadra deve essere sempre il centrocampo, è il motore della squadra. Quando il centrocampo è solido, non vi basta mai nessuno, anche la difesa ne trae moltissimo vantaggio. Perché? Perché trova gioco facile, perché c'è il filtro del centrocampo. Lui non vuole capire, no, a che dire le buone, ma manda zio a che dire, già il primo anno ha fatto mezzo campionato che aveva fatto tutto quanto sciancato, che non riusciva, bastava che si muovesse appena si fortunava. Vabbè, la Juve è riuscita a mettere a posto i suoi massaggiatori, eccetera, i suoi dottori, sono riusciti a mettere a posto. Però è un giocatore lento, oggi ci vuole velocità, e la velocità deve nascere soprattutto al centrocampo. Se non c'è velocità al centrocampo, non c'è gioco in una squadra, perché ti basi in un campo buglione, questi ragazzi che partono in velocità, abbiamo visto anche il Parma con quella velocità, capita, che avevo con quei ragazzi velocissimi, a inseguirli, Quadrado mettendoli appresso, ma quelli là erano più veloci. Da che mondo è il mondo? E tu lo sai meglio di me. Cioè, la difesa della nazionale italiana, da sempre, Barzagli, Bonucci e Chiellini, perché non continua a tenere quella difesa adesso che è rientrato Bonucci? Tu mi dirai, Barzagli è già grandetto, va bene, però io avrei preferito Bonucci, Barzagli e Chiellini in difesa, ok? Le due fasce a copertura con Douglas Costa e Cancelo, i tre attaccanti forti che ce li ha, centrocampo Bentancur che è giovane con Pjanić, che Pjanić è un grande regista, un grande centrocampista, e va bene così, andare così. Cosa mi pone a Matuidi, a Quadrado, cosa mi pone a De Sciglio, cosa stai provando, cosa devi provare? Quella è la prima squadra e quella deve giocare, punto. E infatti secondo me è così che dovrebbe fare un 3-4-3, secondo me. Come hai detto Barzagli, sicuramente, ad esempio, domenica scorsa, anziché mettere terzino, Barzagli mi ha fatto Quadrado, terzino, ma quando mai? Quadrado va bene, uno di fascia, no? Non terzino. Se lui facesse così, Barzagli, Chiellini, cioè Bucci, Chiellini, e poi a destra Cancelo, Bentancur, Pjanić e Alessandro. Io penso che va un bello a Costa, secondo me, perché in questo momento anche Alessandro, diciamo, sta dimostrando che è in ripresa, e da Paola si accosta e prova l'attacco di Bala, Mandzukic centrale e a sinistra Ronaldo, in modo che possa partire da lontano, e sono convinto che ha più spazio e segna un bel di gol, così un bel per me. E poi lo ti sto dicendo, fallo partire da lontano, non lo tenere troppo in avanti Ronaldo, Ronaldo non è un giocatore che sta molto in avanti. Stavi parlando proprio di Marcello prima, corre al Madrid, Ronaldo perché faceva tutti quei gol? Perché partiva da dietro, i lanci glieli dava a Marcello. Se tu un giocatore mentre Ronaldo lo tieni così avanti, non lo tieni leggermente più indietro e più avanti tieni a mano che c'è Dybala. Cosa mi buono, i lanci te li fa da Grascosta, i lanci te li può fare anche Alessandro, te li fa Cancelo i lanci che l'ho visto bene partire sulla fascia, i lanci arrivano da centrocampo, Bonucci sta dando certi palloni allucinanti a Ronaldo, ma non deve essere Edo da pallone, no? Infatti, io sono sempre l'idea che il centrocampo vuole bello forte, in modo che ci sia forza, perché la forza della squadra è sempre nel centrocampo. Se tu ne metti quattro centrocampisti, sicuramente, guarda, ha gioco facile anche la difesa, e siccome la difesa è collaboratissima, che si conoscono, la meraviglia si conoscono, e va benissimo anche con Bagnaghi, per cui non capisco che cosa abbia in testa questo, ma vedere, non riuscirà a creare una squadra come si deve, chita malissima però. Ma cos'è su questa volta, si intende ne andando? Una mattina scarica del PNR, che c'era il PNR acceso, adesso si è scaricata e quando è scarico ti avvisa. Adesso lo spengo. Ah, io lo spento e tanto non c'è nessuno. Siamo qua, non c'è nessuno. Sì, ma infatti te lo sto dicendo, se quella è la difesa collaudata da anni, fai andare quella difesa. C'è anche Benatia che è un bravo difensore, perché non sta giocando Benatia? C'è anche Benatia, certo che c'è, ma Benatia in sostituzione di Bagnaghi potrebbe andare bene, perché in questo momento Benatia è infortunato, capito? Non poteva giocare, magari si sta riprendendo, però era infortunato insieme a De Sciglio, perché anche De Sciglio era infortunato, ecco, quello è il problema anche. Ho capito, ma dice che l'ha recuperato, va bene, però cosa mi pone a Matuidi? E mi daghi mi pone a Bernardeschi e mi daghi a Douglas Costa in panchina. Non esiste, noi ho questi giochi che fanno, ho capito che c'ha tanti giocatori e ha già dichiarato che devono giocare tutti, ma nel contesto che c'è quest'anno tu non te lo puoi permettere, perché io col Parma l'ho vista brutta nella partita, quando è entrato Douglas Costa è cambiato completamente, lo chiamano l'uomo col motore, hai capito? Cioè, quando parte da Grascosta con la palla al piede, no, non è che lo fermi così come puoi fermare a Quadrado o come puoi fermare a Matuidi, non esisti, io a questi giochi non ci sto, è una Juve che ancora non capisco che gioco possa fare quest'anno Allegri, non lo so. E dai, Vito, avanti. Ecco, come via, ma come si chiama? Come si chiama? Perché me lo ricordo. Vannuccio, Vanni. Ciao Vanni. Vai capo, Vannio. Demonio, poco ci sto entrando e poco ci stiamo entrando, però quando c'è Giulio io mi faccio due chiacchiere di calcio, non è che ne comprendo, è che seguo la squadra che mi piace e chiaramente in certe circostanze vado anche a criticarla, perché è così che si fa, no? Sempre da spettatore e non da intenditore. Che si dice a Sosso? Ehi, basso si prova, niente. Dai Gaza, che faccio? Guarremo a Santiago Setti, io sono col baracchino, ti sento molto basso. Eia, quindi sei già rientrato? Hai finito di stare in giro o sei ancora fino a ottobre? Riprendi giù, l'ho perso. Sì, no, ho detto che ne ha ancora un po', ne ha. Per cui, però adesso è uscito anche quel fischio. Vanni aggiustava il radio, che c'è uscito basso e col fischio anche, si è capito poco di quello che hai detto, sì, ma è così, e infine Fannino, non hai compreso le figlie, ma quanto Fannino? Ma so che eri fuori, in stagione, facendo lavori. Ah, ecco, quindi non sei fuori, dai. Già sei vicino. Manutenzione straordinaria. E c'è tutto settembre ancora. Sì, adesso sei più forte di segnale. Mi interessava il segnale, anche se la radio è un po' così, ma comunque già ti sento meglio, dai. Non c'è problema. Va bene, va bene. Ehi, a me l'altro giorno ero sentito a Franco, ma anche lui ha terminato, è andato in pensione. Infatti è un po' assente dalla radio, forse no. Va, se così va. E nulla. Ah, non stavamo entrando, troppo caldo, adesso il tempo sta un po' cambiando, quindi la sera con Giulio un'oretta, con Marco, insomma, quelli del 10. Quei pochi che siamo rimasti ci facciamo due chiacchiere. Parurito, Sirabiglia e Luci. Vai Giulio. Ok. Lavoro per me, che ci devi pagare la pensione a me, a Claudio, che è petita. Adesso i contributi. Sono l'Inps e non ci pagano né a me né a Claudio. E vabbè, dai. Non pagare ancora, va lì. Attento, bollone! Chi è quello? Luca? Eia! Avanti Luca, c'è Bannino, non so se lo senti. Non l'ho lanciato, ma forse non mi ha sentito. Dove è Luca? Ah, passo, lo stesso. Io sono già da gennaio. Ufficialmente da gennaio, ma già da lavoro sono mancato da novembre del 2017. Vabbè, mi senta. Ehi, tapparetta. Non lo senti a Vannino, parlate uno sopra l'altro. No, Vannino. Io ce li avevo, ne ho approfittato e la giornata di tutti non la mara, non la giustizia a Matarami lo dai bedo, anche se non ti nascondo che la mattina non passa mai perché io non è che abbia molto da fare, però va bene così, almeno sono a casa e non ho di missa a farmi lo sangomaro, ora ieri, basta, finito. Non lo senti Luca Vannino? Basso, grazie, lei non è a Radio 1. Comunque quella roba là l'ho ordinata, adesso vediamo quando arriva. Via, tu mettila a posto e poi me la dai a me. Mettila a posto e me la dai a me. Che tanto mi serve, perché io qua nella stanza c'ho quello da 32 attaccato a parete, però non c'ha la scheda, capito, il portascheda, e quindi ho dovuto mettere un decoder esterno portascheda per vedere le partite, mentre quello lì è più bello, lo tolgo, quello lì e non si vede niente, è la cosa riuscì a attaccare sotto la televisione, a me non mi piace, quindi te lo sto dicendo, così questo se lo mette nell'altra stanza d'aria che è più grande di quello che ha. Vai Giulio. Ok, già serve un altro televisore a casa, meglio zinco io installate qua. Vabbè, la mia casa è a più ripiani, per cui ne ho dappertutto, 5 ne ho, poi ne ho uno conservato, che è quello lì, è proprio di quelli antichi, quello a tubo cattolico, mentre tutti gli altri 5 sono tutti a schermo piatto, quelli moderni, insomma, ecco. Per cui dobbiamo immaginare, se voglio venire qualche partita, già ne ho. Se ce ne guasta uno, già c'è l'altro che posso rimpiazzare senz'altro. Va bene, dai, è vivo il consumismo. Avanti, Vannino. Dai radio, adesso c'è il segnale, no, per radio non ne hai, dai radio. No, non c'è radio. Adesso c'è la radio, però c'è un fischio sotto. Vabbè, già. Adesso vai in su e ribasso. Adesso sei 9, il tuo segnale. Quindi adesso già ti sento bene, anche se usavi l'altra. Va bene Vanni, dai, già ci sentiamo. Buona voce, a buon tutto e alle prossimine. Vai Giulio, aspetta Luca, non te ne andare, vai giù. Ok, ciao Vanni, fatti sentire ogni tanto almeno. Non ci abbandonare completamente. Pittina. Ciao Vanni, grazie comunque per essere entrato a salutare, dai. Ci sentiamo alle prossime eventualmente. Ciao, grazie. Vai Luca. Vabbè, salutate, ma arriva a passo qua, dai. Dimmi qua, sono nazionale. Ehi, ciao di nuovo Vanni, alle prossime. Ho detto, l'hai ordinato quindi il pezzo, tutto a posto. E te lo mandano? Allora, ragazzo, qualcosina di più perché arriva dall'estero, so che fanno pagare anche la chiamata dogana. Sì, sta a posto, dai. Ma che cos'è praticamente? Come quello che hai riparato a me, cos'è la scheda di alimentazione? Sì, alla fine il televisore non è nuovo, peccato, qua, capito? Appunto, è quello che hai riparato a me, perché non l'ho buttato? Cosa da giudice a te? È nuovo, era di miei soci, è un MIFAR, 32 pollici, schermo piatto, me lo sono messo nella stanza dove c'era il radio, dai, capito? Però quando prendo quello lì, questo qua le rimetto il piantone, perché si è attaccato al muro, le rimetto il piantone e lo do a Ilaria, che il suo è piccolo, da 20-26 mi pare, le do quello lì, che lei delle partite non gliene frega niente, quello c'ha il decoro incorporato, c'ha tutto, però gli ho dovuto mettere un portascheda esterno, perché sennò non potevo avere le partite. Invece quello lì che c'ha la must card, come il cavolo si chiama, io ce l'ho già, perché me l'ha regalato una premium e ce l'ho, e l'altra ce l'ho nell'altro televisore, però ce l'ho in più, quindi la metto quello lì e appunto la metto la scheda, capito? Va bene, dai, vai avanti con i lavori, quando sei pronto avvisami, gappa. Ciao, buona cena, buon tutto, saluta mia Marina. Sì, dai, saluta mia Anna, sono cambiata la parte di Marina. Ciao Giulio, anche a te. Buona scheda quando l'ha fatta, a domani se Dio vuole. Ciao, buonanotte. Ciao Luca. Salutoni, a risentirci, dai. A domani, anch'io sono molto devo scendere, sto aspettando da un momento all'altro la chiamata, che sicuramente arriva fra qualche minuto. Avanti qua. Ehi, gappa, io aspetto quando vai via tu, quando vai via tu, chiudo anche io. E niente. Aspetto che rientri mia figlia, che è andata, te l'ho detto, dal veterinario, aveva appuntamento alle 7, ma chissà che ora ne meni, e poi ceniamo. Va bene. Ok, beh certo, è arrivata l'ora, sono già l'8, per cui qua si comincia già a parecchiare di sicuro. Vabbè, ancora non mi ha chiamato, ma è solo questione di qualche minuto, perché intanto ormai lo so, l'abitudine è questa, noi siamo sempre a quell'ora che ceniamo, minuto più minuto meno siamo sempre lì, all'incirca sempre intorno alle 8, 8 e 10 massimo, quando esagerando proprio alle 8 e un quarto, quando è proprio tardi. Va bene, andate bene, Mattesi, nessun problema. E Marco oggi non si è fatto sentire. Non so, ieri ha detto che era dalla zia, vabbè la domenica, oggi è lunedì, non lo so, adesso piano piano già si riprende il tram tram, dai, poi già lo sai, vi gioco io, quindi già trascino un po' di gente, vedi, sta entrato Vannino, anche se un po' stanco, ma la sera poi già si fa sentire anche lui. Valerio è ancora in vacanza, ma già entra anche lui, e piano piano già si fanno sentire tutti, dai. Penso proprio di sì. Infatti, io stavo pensando di mandare anche un messaggio a qualcuno, tipo ad esempio a Antonello Barracuda, che la sera so che è libero, a meno che non ha ripreso a lavorare in questo periodo, ma mi aveva detto, quando è? Alcuni giorni fa mi aveva detto che lavorava la mattina, la sera era libero. Anche Franco Ombra volevo mandare un messaggio, che sicuramente la sera lui quattro chiacchiere penso che se le possa fare, dal momento che fa il lavoro che sta facendo. E e qualche altro, poi anche Marino, ad esempio Marino, senz'altro, magari Marino non lo sa che siamo qua, ma già spazzola anche lui e prima o poi già ci trova. Pazienza, noi non li tricca. Chi sentiamo lo rispondiamo e salutiamo, chi non lo sentiamo pazienza, vuol dire ci saranno momenti migliori. No, Marino già lo sa, siamo qua, è entrato l'altra sera, c'è l'Antonello, già lo sai, siamo qua e già ce n'è gente nascosto, non c'è problema. No, io ho preferito rimettere in piedi nuovamente il 10, perché per noi parliamo di tante cose, di calcio, a volte diciamo anche stronzate, quindi insomma loro hanno un diverso QSO e quindi a volte magari stai lì, disturbi, fai senza nessun problema, per carità, chi vuole entrare qua può entrare assolutamente, non c'è nessun diverbio con nessuno, è preferibile però così, è preferibile così, poi se non c'è nessuno da una parte si va dall'altra e viceversa, però già va bene così, KK. E io avevo la batteria completamente scarica di questo MB più 5, sto andando sempre con quel baracchino base. E niente, adesso non ha fatto più quel difetto, vero? No, sta uscendo sempre bene, abbastanza bene, molto bene. Segnale altissimo, radio potentissima, molto molto bene. Io lo stesso, questa batteria in questo microfono, io penso che ce l'ho, ma come vivo, quasi 2 anni. È sempre quella, non la sto utilizzando da tanto, tanto tempo. Anche ti dico di più, quando l'avevo messa non era nemmeno nuova, era stata già usata. E l'MB più 4, quanto sembra, non consuma molta batteria. Boh. Evidentemente va bene così. E il volume lo lascio sempre fisso io, non è che lo tocco mai, perché tanta gente magari dice se abbassi il volume magari consuma, non ce n'è della batteria, ma io lo lascio sempre a quella visuale lì, non, ovvero che la batteria dura alla grande, per cui va bene. L'avevo comprata lì un paio di anni fa quasi, da Mauris, lì a Pedranieta. No, io questa qua è una dura, ce l'ho presa al tabacchino. L'altra che avevo era degli cinesi, quindi è durata poco. Capite? Infatti non me ne ho neanche accorto, anche perché il microfono era sempre dentro l'armadio, perché è un attacco a 4, e questo l'avevo comprato da Gigi Vulcano, MB più 5, modificato, nuovo, l'avevo preso da lui che non lo stava usando. C'ho anche il più 4, però questo è superiore perché c'ha i toni, insomma, poi modificato e la capsula non è la sua, quindi spinge molto molto molto bene. Ce l'ho a 3, 3, 4, 3 e mezzo, e il tono ce l'ho a 2, perché così comprime leggermente la mia forza delle corde vocali, se no è troppo amplificata, capito? E va bene. No, ottimo abbinamento. E se no questi baracchini si faranno il fumo, questa è una bella radio, questo è un bel attrezzo, anche perché i K sono dentro le scatole. Sono tutti dentro le scatole, basta, c'ho quello amatoriale, praticamente il 756 della Icom, che però in AM non mi piace, quindi ho messo il baracchino. Già va bene così, per fare due chiacchiere, poi appena metto tutto a posto riprendo nuovamente col K, dai. Ok, beh certo, già lo credo. In effetti quelli bisogna accendere continuamente, perché purtroppo hanno quel difetto lì, se no è capace che fanno delle sorprese. E anch'io adesso uno di questi giorni contatto Fabrizio, vediamo un po' se me lo mette a posto, se no pazienza, se no lo lascio così. Non lo spedisco, non penso che non ne valga la pena qua. Per cui o me lo mette a posto lui, se no l'ubbino del bombo dentro la cartola fin quando si marcisce. E solo così posso fare. Perché sì, avevo anche pensato, ma quasi quasi faccio una cassettina di legno, faccio leggera, allora mi è compensato robusto, metto un po' di polistirolo dentro, faccio un pacco e lo spedisco per farlo riparare, perché è un peccato, perché la panchina è nuovo, nuovo, e poi quando funziona, funziona molto bene, non, poi per me va bene, intanto non è che ho pretese di andare in madre del camito, che io, mi serve solo per ascoltare, che poi sto ascoltando anche poco e niente, una volta mi ha dato, diciamo che mi sono anche stancato, per cui non lo so, comunque saremo a vedere, come vi salta in mente, cosa devo farne, dai. Non dimenticare che era la mia quella radio, l'avrei presa tu, gli ho data io. Quella radio era nuova, nuova, io quella l'avevo comprata da un radioamatore che era dentro la scatola, capito? Era dentro la scatola. E non me la voleva manco dare, non me la voleva manco dare. E quindi non è mai stata toccata. Quindi è chiaro che con l'andare degli anni i condensatori sono andati un po' a consumarsi, ma quella radio è originale, è nuovissima, trattata benissimo, perché io ce l'avevo io, poi l'avevo data a Franco e Franco l'ha data a te, quindi ci sono pochi passaggi lì. Io l'ho comprata proprio, era dentro la scatola, tant'è vero che la scatola di quella radio ce l'ho io in mansarda, capito? Ce l'ho io in mansarda, perciò non è un problema. Va bene, dai, ti anticipo, perché a me mi hanno già chiamato, a te ancora no, a me già sì. Quindi ti lascio, sono già le 8:10 quasi, vado a dare una mano e poi si cena, dai. Ci aggiorniamo domani, Giulio, grazie delle due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto, naturalmente, buon fine serata a tutti, a domani, Giulio. Ok, ciao Claudio, grazie a te per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani, sperando che possa entrare anche Marco e qualche altro amico anche, così possiamo allargare un po' più di più il discorso. Ciao di nuovo, saluti in casa, ciao. Ciao Giulio, a domani, ciao, grazie a te, ciao.